Montecitorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio qui dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. Abbiamo con noi oggi Anna Laura Bussa, responsabile ANSA del Senato, specializzata in diritto parlamentare e politica giudiziaria. Buon pomeriggio Anna. Buon pomeriggio a tutti. E abbiamo al telefono il senatore Dario Stefano di SEL, presidente della Giunta per le autorizzazioni ed elezioni del Senato. Buon pomeriggio presidente. Buon pomeriggio a tutti quanti. Allora, siamo qui per presentare in anteprima, perché verrà presentato solo la prossima settimana, un libro, La decadenza, dell'editore Manni, che riguarda il caso Berlusconi. Presidente, lei si ricorda quei giorni funesti in cui lei ha dovuto presiedere una giunta, per dir poco, un po' turbolenta? Ma certamente che li ricordo, e ricordo anche l'intensità di quelle ore sotto una pressione, una tensione mediatica che ha accompagnato i nostri lavori e che ha accompagnato una decisione che per molti è stata considerata storica e la considero ancora oggi una decisione importante, perché ha impegnato i lavori di un organo parlamentare nell'applicazione per la prima volta di una legge dello Stato che peraltro era stata da molti invocata e anche applaudita. La decadenza ovviamente riguardava Silvio Berlusconi. Anna Laura Bussa, che ha seguito per l'ANSA e poi ha scritto questo libro insieme a Dario Stefano, qual è stato il momento di svolta a un certo punto? Perché sin dall'inizio si sapeva che la maggioranza avrebbe votato per la decadenza di Silvio Berlusconi da senatore, però a un certo punto c'è stato un momento in cui tutto si è deciso. Sì, beh, i momenti importanti sono stati sostanzialmente due. Uno proprio all'inizio, quando si decise di aggiungere a una procedura già in atto in giunta sull'ineleggibilità di Berlusconi anche questa della decadenza che fu conseguente alla sentenza di agosto, appunto, in cui venne condannato in maniera definitiva Berlusconi, e quindi lì già si decise che ci sarebbe stato, diciamo, insomma, anche un po' una procedura piuttosto delineata e, insomma, con tempi che poi sarebbero stati piuttosto, insomma, decisi e comprensibili, insomma, come iter proprio a livello procedurale, diciamo così. E la seconda svolta? La seconda svolta fu appunto quando ci fu la riunione in Camera di Consiglio per decidere definitivamente, quindi ci fu una tensione piuttosto significativa. Ci rendemmo conto che c'era, insomma, questa tensione e questa attenzione soprattutto da parte dei media di tutto il mondo, quindi c'era un pressing serio su questo evento, insomma, e su tutti i componenti della giunta, che immagino, insomma, per il presidente pure saranno state ore memorabili. Ecco, ricordiamo tra le altre cose che c'erano tutti i media. Io fui intervistata dalla BBC a proposito, presidente, e lei fu un po' al centro delle polemiche, perché ci fu il famoso post di Vito Crimi, si ricorda la famosa foto. Lei però decise, presidente Stefano, di andare avanti. Perché? Perché ho sempre avuto come bussola il regolamento. Svestendomi di discrezionalità, ho sempre immaginato che una procedura così complicata e così attenzionata si dovesse guardare al regolamento come unico punto di riferimento e di guida di tutta la procedura. E il regolamento anche in questo caso ci indicava chiaramente la strada della prosecuzione dei lavori, poiché non vi era motivo che aveva influenzato quella decisione, né vi erano cause che giustificavano un eventuale rinvio. Momenti, minuti per me impegnativi da un punto di vista della responsabilità di decidere, ma con la convinzione di operare sempre in linea di una regola che sarebbe valsa in ogni caso, anche se non fosse impegnata la Giunta a decidere su un leader di un intero partito di un'intera coalizione come poi è stato in questo caso. Il fatto che lei fosse di SEL, un rappresentante di SEL, non ha influenzato una decisione, non è stata una decisione politica, lei ce l'assicura? Ma guardi, io dal giorno prima, quando ormai sembravano ormai definiti gli accordi tra i partiti al Senato per una mia elezione a Presidente della Giunta, mi sono svestito dei panni di appartenenza. Lo ritengo un fatto assolutamente dovuto e ho cercato di interpretare quel ruolo sempre all'insegna di una necessità di non essere appartenenti ad una parte politica, ma di essere un esponente del Parlamento, di un organo che è geneticamente politico, ma che però aveva la necessità di interpretare una procedura e non di vestire i panni di ultra. Anna Laura Bussa, questo libro che tu hai scritto a quattro mani insieme al Presidente, che cosa ripercorre quindi? Tutto l'iter che ha portato alla decadenza di Silvio Berlusconi da senatore? Dunque, quando arrivò il voto definitivo anche dell'Aula su tutta questa vicenda, apparve assolutamente importante, insomma, per tutti quelli che avevano seguito questa attività, sia il Presidente appunto in quanto protagonista principale di questa storia, sia anche noi come giornalisti che avevamo seguito questa cosa, di estrapolare per consegnare appunto ad un paese sostanzialmente senza memoria un fatto che sicuramente ha fatto storia, insomma, sia perché è stata la prima volta in Parlamento dell'applicazione della legge Severino, sia perché ha riguardato un leader che dominava, insomma, il panorama politico da oltre 20 anni. Quindi estrapolare una cosa del genere da quello che è stata la propaganda politica sia della maggioranza sia dell'opposizione, per consegnarlo invece nella sua realtà, cioè per quello che è stato esattamente, quindi documenti, fasi salienti della vicenda, e abbiamo deciso appunto di renderlo il più obiettivo e il più documentato possibile. Presidente, lei è ancora convinto della retroattività della legge Severino? Perché si ricorda che c'era tutta questa discussione anche molto tecnica, no? Se questa legge doveva essere applicata oppure no, visto che era poi riguardava dei fatti che erano stati compiuti prima dell'approvazione della legge. Da questo punto di vista mi consegno alla decisione della Giunta, che ha indicato la strada, che poi era anche la strada indicata dal legislatore nel 2012, che era quella di dover intervenire immediatamente sulla composizione di un Parlamento e quindi delineando lo status del parlamentare. Io credo che la decisione della Giunta sia la decisione che è coerente a quella che era stata l'indicazione del legislatore, e sia anche una decisione che interpreta anche la volontà della comunità elettorale italiana, che ci ha sempre chiesto che il parlamentare avesse dei requisiti che lo ponessero al di sopra di ogni considerazione diversa. Ma oggi lei, quando vede Malan, Elisabetta Alberti Casellati, che ricordiamo sono i membri della giunta per le elezioni di Forza Italia, che rapporto ha? Vi salutate oppure c'è ancora astio? In tutti questi mesi ho cercato sempre di distinguere il fatto politico da un fatto di merito, e credo che nessuno in giunta, compreso i colleghi che lei ha nominato, possano attribuirmi cose diverse. Ho sempre cercato di dare a tutti l'opportunità di confrontarsi, di indicare la propria opinione, di indicare la propria considerazione, ma poi ho cercato di mettere sempre la giunta nelle condizioni di decidere al meglio, sempre al di fuori e al di là delle pressioni che oggettivamente c'erano all'esterno, ma che devo dire onestamente non hanno poi influenzato la serenità dei nostri lavori. Allora ricordiamo, ringraziamo intanto il presidente della Giunta per l'autorizzazione delle elezioni del Senato, Dario Stefano, che è stato qui con noi oggi. Arrivederci presidente. Arrivederci a voi. Ringraziamo Anna Laura Bussa, responsabile ANSA del Senato, specializzata, ricordiamo, in politica giudiziaria. A risentirci. Arrivederci. E poi ricordiamo il libro che sta per uscire, La Decadenza, editore Manni, che racconta i giorni della decadenza di Silvio Berlusconi da senatore. Noi ci risentiremo sabato prossimo.